Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Buon inizio di settimana da Francesco Galante. Come di consuetudine abbiamo il nostro collegamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. L'argomento di oggi è un argomento che interessa moltissimi veneti, perché ci sono quattro banche commissariate che sono state, come dire, salvate dal governo, e quindi di questo parliamo oggi. Sì Francesco, parliamo dell'ennesimo scandalo delle banche, perché non dimentichiamo, abbiamo parlato un po' di tempo fa delle banche di Paschi di Siena, ma siamo nel pieno di un'attività nei confronti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, ma l'occasione di parlare di questo vorrei che fosse determinata dal nuovo provvedimento del governo, che ha deciso di stanziare 3,6 miliardi di euro in favore di quattro banche che erano commissariate e rischiavano il crack. E esattamente parliamo di e Cari Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Cari Chieti. Esatto, queste quattro banche italiane commissariate che sono state salvate, la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca devono invece diventare delle SPA, altrimenti verrebbero commissariate pure loro. Sì, allora, per parlare della vicenda di queste quattro banche commissariate, vediamo se faccio un'idea che per esempio Banca Marche avevano oltre 400 filiali, giusto per capire che come fa una banca di queste dimensioni poter operare con una certa disinvoltura e trovarsi in una situazione di commissariamento. E quindi sappiamo che quando questa cosa accade, purtroppo in Italia, per effetto anche di una recente normativa che il governo ha recepito, a farne le spese sono gli azionisti e gli obbligazionisti, e i correntisti per le quote eccedenti ai 100.000 euro. Per quanto riguarda Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, invece siamo anche qua nel pieno di una crisi determinata proprio da un dissesto finanziario, dove sostanzialmente decine e decine di persone si stanno rivolgendo all'Adico perché hanno visto in sostanza andare in fumo i loro risparmi, gente che hanno investito risparmi di una vita, anche cifre importanti, e che in maniera poco trasparente sono stati convinti di sottoscrivere degli investimenti, e oggi si trovano praticamente con un cenno in mano, azioni che da 30, 40, 50 euro sono diventate sono colate a 7 euro, quindi hanno perso praticamente il 70-80% del loro valore, oltre a non restituire quelli che sono anche le spettanze per chi decidesse, non so chi, ma di poter riprendersi i soldi indietro. Sì, ricordo che verso il fine della settimana scorsa, credo giovedì, sui giornali era uscito il valore di Veneto Banca per chi voleva recedere dalla trasformazione della banca e quindi vendere le proprie azioni, avrebbe preso 7,30 euro, vado un po' a memoria, ricordando che fino a poco tempo fa il valore era 40, poi sceso a 30 per decisione sempre di Veneto Banca. Quindi un 70% praticamente di perdita. Sì, praticamente 70% di perdita, ma la cosa più scandalosa è che poi se le vai a chiedere ci sono dentro l'anno, perché non hanno la disponibilità e la liquidità di poterlo fare. Ma soprattutto è scandaloso come quando accadono queste cose fanno le spese sono sempre risparmiatori, perché ormai dobbiamo capire che a fronte di quello che può essere una forma di investimento interessante, come potrebbe essere un'obbligazione, e poi ci troviamo che nei casi di questi dissesti finanziari in cui l'azionista o il socio della banca o questo genere di investitori devono concorrere poi anche al risanamento per effetto di questa nuova norma, mentre i correntisti, come dicevo in apertura, sono garantiti fino a 100.000 euro, mentre le banche potrebbero applicare dei prelevamenti forzosi sull'eccedente di 100.000 euro di liquidità sul conto. Quindi una situazione che non fa stare tranquilli quasi più nessuno, perché oggi veramente siamo arrivati in una situazione dove investire diventa pericoloso, fidarsi ancora meno, perché la maggior parte delle vittime delle persone che si sono rivolte all'Adico sono persone che negli anni, nei decenni si sono sempre fidati in dei sportellisti o dei funzionari che li convincevano di operare in un modo rispetto ad un altro per avere un minimo di interesse e salvaguardare il potere d'acquisto del proprio capitale, sottoscrivendo delle azioni che li spacciavano come sicure e in realtà stavano vendendo quasi carta straccia, e soprattutto persone che anche arrivate alla necessità di dover recuperare quei quattro soldini messi da parte per esigenze anche di salute, di ricovero, anziani o figli che hanno bisogno di acquistare una prima casa eccetera, si trovano praticamente con nulla. Cosa consigliamo eventualmente? Continuate, amici, a chiedere aiuto all'Adico? L'Adico potrà fare qualcosa? Beh, noi in queste settimane stiamo incontrando a gruppi queste persone che sono rimaste vittime di questa vicenda, stiamo diffidando le banche a restituire il maltolto, stiamo verificando i documenti che hanno per capire in che modo sono state anche estorte certe proposte, perché ci sono anziani che non possono essere, non si può pensare che un anziano di 80 anni sia stato un investitore incallito o di azzardo rispetto invece a chi ha cercato di mettere ai pari i propri soldi. Pertanto è quello di continuare a rivolgersi all'Adico, noi stiamo tutelando i nostri soci, stiamo diffidando le banche, stiamo già iniziando, abbiamo le prime crack session, le prime cause, e partiamo con la presunzione di dover obbligare, costringere la banca a restituire i soldi ai loro soci. Quindi è l'unica cosa in questo momento che mi consiglio. Poi, come altre cose, vediamo l'esempio di queste quattro banche crediti cooperativi, qua bisogna stare veramente attenti quando si decide di intraprendere un rapporto di fiducia con una banca, di verificare situazioni in cui la banca si può trovare. Certo, e quindi insomma scegliere bene la banca anche quando iniziamo ad avere un rapporto con questa. Non solo la banca sceglie noi, ma dobbiamo scegliere bene anche noi la banca. Grazie quindi all'Adico, ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, ci risentiamo nei prossimi giorni. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.